Ti dicono sai nella vita non sarai mai nulla. O ti dicono sai sei geniale ma non senti che è una truffa. Sai si può dare tutto ciò che si ha da dare, ma questa vita non sa sempre ripagare. Allora dimmi tu che devo fare. Non è il tempo di fermarsi, davanti a noi c'è un'autostrada che non ora è ad uscita. Puoi rallentare, accelerare, il bello è che ti sembrerà di star sempre lì sulla corsia di destra. Sai che in questa vita si deve lavorare, ma poi mi hanno detto che per fare i soldi c'è bisogno di imbrogliare. Sai, devi dare tutto ciò che hai da dare, anche se la vita non sa sempre ripagare. Ma rischiare, almeno avrai la forza e imparerai a lottare, capirai che ce la puoi fare. Non è il tempo di fermarsi, davanti a noi c'è un'autostrada che non ho neanche ad uscita. C'è un'autostrada che ha sempre un'area d'uscita. Puoi rallentare, accelerare, il bello che ti sembrerà di star sempre lì sulla corsia di te.